Palazzo Roverella, protagonista in mostra, sede espositiva che seguiamo per ogni esposizione. Henri di Toulouse-Lautrec è in un percorso curato da Francesco Parisi, curatore che già abbiamo conosciuto per altre esposizioni e non solo a Palazzo Roverella, nelle sedi espositive del Breakfast Club in mostra, anche Magnani Rocca, per portarne un'altra nella nostra rassegna, per citare altre sedi prestigiose e non solo, insomma, nello spazio a regola d'arte dei 103.1, questo grande, immenso, gigante dell'arte. Io ne ho un debole, in quanto oltre che essere personaggio contraddittorio, molto vivace, per usare un eufemismo, ha dato veramente un contributo all'arte, seppur in soli 36 anni di vita, veramente notevole. Conosciuto frettolosamente per quella che è un aspetto di grafica dai cartellonistica, ma non solo, c'è tanto, anzi quello è un aspetto, insomma, che vedremo certamente, non si può trascurare quando si parla di Henri de Toulouse-Lautrec questo aspetto, ma nell'ambito della ricerca artistica, dell'ispirazione, della proposta, di questo senso di ribellione, di inquietudine, di vivacità artistica, vi è veramente un mondo da scoprire. Paradossalmente definito gigante immenso, in quanto purtroppo fisicamente, vi spiegherò anche i motivi, Toulouse-Lautrec non era, diciamo che non potrebbe giocare pivot nei Boston Celtics, ecco, voglio essere un po' edulcorato, però purtroppo la sua progenie e la sua discendenza è stata molto limitante per quanto riguarda la crescita e uno sviluppo. Lui viene da nobilissime origini, è molto ricco, molto benestante la famiglia. Lui nasce ad Albi, nel sud della Francia, il 24 novembre del 1864, morirà il 9 settembre del 1901. Pittore francese, uno tra le figure più significative dell'arte del tardo Ottocento, che resta poi comunque tutti i tempi. Lui, insomma, nasce tra un matrimonio fra cugini. Come ben sapete, il sangue blu si doveva mantenere e quindi questa incestuosità portava poi a delle malformazioni o a delle debolezze importanti nell'organismo. Così, infatti, Henri Toulouse-Lautrec, affetto da una forma di nanismo e di debolezza nelle gambe che l'ha limitato fisicamente, non l'ha certo limitato per quanto riguarda la sua vivacità, il suo approccio con le arti, la sua voglia di essere trasgressivo e ribelle. Di questo ne parleremo nell'inizio per la sua biografia, di cui vorrei dare qualche nota. Lui subito protetto, visto anche queste difficoltà fisiche, la madre poi con una famiglia vicino alle arti e la possibilità di espressione artistica, diceva: tutti in famiglia abbiamo grandi capacità di espressione artistica. La madre, tra l'altro, raccontava: quando i miei figli vanno a caccia, beh, il piacere per loro nel catturare una preda, che so, un uccello, beh, loro hanno tre piaceri: nella cattura, appunto, nel mangiare la selvaggina e soprattutto, prima di tutto questo, di dipingerla, di ritrarla. E in effetti la capacità di Toulouse-Lautrec, seppur immediata, che poi affinirà con dei percorsi vicino ad altri artisti che daranno a Toulouse-Lautrec una capacità anche tecnica molto importante, è appunto ben accompagnato da questa famiglia, oltre che essere ricca, anche molto molto disponibile alle propensioni artistiche. Io ho portato Bud Powell come commento musicale, anche lui pianista controverso, talento immenso, lui ha fatto parte del famoso The Quintet, però anche lui purtroppo con una vita molto limitata dalle caratteristiche, oltretutto per l'epoca, insomma, in difficoltà, come ben sapete, per le questioni razziali, essendo afroamericano. Da Bud Powell, estremamente però vivace, estremamente forte, propongo una selezione di brani che saranno la colonna sonora dedicata a Henri de Toulouse-Lautrec a Palazzo Roverella. Sarà fino a giugno, quindi una mostra estesa, una mostra ricca, un progetto di ricerca di cui parleremo a breve con il curatore, insomma, oggi veramente in mostra tutti i tempi. famiglia protettiva, una famiglia che ne riconosce il valore, una famiglia che ha grandissime, immense possibilità. Il padre ovviamente protegge, la madre seppur molto preoccupata e con tante difficoltà, lei stessa Toulouse-Lautrec dice: una madre piena di virtù, ho una madre incredibile, mi difende, è coraggiosa. Lei ha ceduto solamente davanti ai pantaloni rossi di mio padre, in quanto il padre era nella fanteria come ufficiale, nobile ufficiale dell'esercito francese, che appunto portavano questa divisa. Dice: ha subito terribilmente il fascino della divisa, è stata l'unica debolezza che ha avuto. Padre lo invita a stare all'aria aperta, chissà, magari, dice: figlio mio, in tutta la tua debolezza e l'aspetto cagionevole, il pensiero di poter stare all'aria aperta e il pensiero di poter stare anche in mezzo a una situazione tra virgolette sana come ambiente ti aiuterà, la luce, i colori, l'ispirazione, che per la tua propensione artistica, mi raccomando, vita all'aria aperta. A lui, a Toulouse-Lautrec, sono al piccolo Henri, sono molto di conforto queste parole, perché chiaramente è sofferente queste parole, però sono di grande conforto, è che lui non ce la fa mica. Lui da subito ha preferito la vivacità, ha preferito il cabaret, ha preferito una compagnia chiassosa, ha preferito circondarsi anche di donne avvenenti, ha preferito abbandonarsi all'alcol e non solo. E da qui vedremo appunto i percorsi parigini. Parigi è l'altra grande protagonista dell'esposizione per Palazzo Roverella dedicata a Henri de Toulouse-Lautrec. Con il co-curatore dell'esposizione a Toulouse-Lautrec a Palazzo Roverella, Francesco Parisi, mostra straordinaria, tra l'altro, cosa importante, come siete riusciti a mettere ordine in una vita e in percorsi artistici così eterogenei, così diversi, così particolari. Allora, la mostra è stata quasi una sfida, ovviamente, perché sottrarre un artista così complesso al mito dell'artista deforme, nano, alcolizzato, frequentatore di bordelli così, e restituirlo proprio alla storia dell'arte, ovviamente è stata forse l'aspetto, una vera e propria sfida. Abbiamo costruito un importante progetto scientifico, io soprattutto e Jean-David Jumeau-Lafont, inserendo l'artista nel contesto, ovviamente il coprotagonista della mostra è Parigi, ovviamente. Quindi un percorso scandito per tappe cronologiche, dalla formazione presso l'Atelier Cormon fino ovviamente al grande successo come autore di manifesti negli anni 90, che ha un po' soppiantato la produzione pittorica. Però abbiamo previsto delle, possiamo dire, piccole aree di sosta, ok, durante l'esposizione, che sono dei focus di approfondimento. Uno dei più importanti ovviamente è il primo gruppo d'avanguardia fondato da Lautrec insieme ai suoi amici dell'Atelier Cormon, e stiamo parlando però di persone del calibro di Émile Bernard, ma soprattutto di Vincent Van Gogh. Quindi abbiamo ricostruito questo gruppo e l'esposizione. Dopodiché un altro, diciamo, area da esplorare era quella di mostrare un Lautrec colto, un Lautrec, sì, frequentatore degli ambienti intellettuali, sì, che possiamo dire, anche in forma quasi, in un caso specifico, quello di Jean Loren, come contrasto, come nemico. Jean Loren era il più grande nemico di Lautrec, perché era un esteta, un raffinato dandy. C'è un aneddoto, non mi piace raccontare gli aneddoti degli artisti, ma in questo caso è emblematico. Jean Loren ad una mostra prese in braccio Lautrec, quasi come il famoso lancio del nano, si può dire, uno sfregio, e Lautrec lo prese a bastonate. Da allora Jean Loren, qualsiasi attività che faceva Lautrec, lo devastava criticamente. Assolutamente. Vittima di questo bullismo intellettuale, addirittura viene lanciato per aria, così con sfregio, da Laurent Undendi. Henri de Toulouse-Lautrec si abbandonerà, ovviamente si sapeva difendere, lo prese a bastonate, e da lì una inimicizia chiaramente presente in ogni espressione, con una critica feroce verso l'un l'altro. Poi anche l'incontro con Van Gogh, un anticipo di avanguardia portato, di cui ne parleremo con Francesco Parisi nella nostra conversazione, e tutto ciò è riportato in mostra, è una mostra estesa, una mostra che rapisce, una mostra che ha un progetto di ricerca su Toulouse-Lautrec che lascia in maniera originale veramente sbalorditi dalla bellezza e dall'importanza di questo artista singolare, ma quanto mai tutti i tempi. Sfugge alla famiglia nonostante sia così protettiva e benevola nei suoi confronti e a favore dell'espressione artistica. Lui sfugge e lui addirittura viene proposta per Toulouse-Lautrec una casa meravigliosa nei quartieri bene di Parigi. Lui dice no, assolutamente, io voglio andare in un tugurio vicino alle Bettole, a Montmartre, in questi locali dove si tira tardi, dove si beve, dove si sta in compagnie chiassose, dove si litiga, e certamente è la risposta alla natura, che è stata certamente non benevola nei suoi confronti in seguito a questi accoppiamenti incestuosi dei nobili di sangue blu. Ricordo, lui è figlio di due primi cugini, Le madri dei genitori di Lautrec erano sorelle, per dire. Anche una parte dove lui coglierà l'arte, che ha una definizione molto particolare. Allora, quando vogliamo definire Toulouse-Lautrec facciamo veramente delle capriole incredibili, perché post-impressionismo, simbolismo, lo studio nell'anticipo delle avanguardie, la cartellonistica, la grafica, il disegno, insomma c'è veramente un'estensione enorme tenuta insieme da un aspetto assolutamente irriconoscibile. Questo vuol dire una grande originalità, una capacità di espressione, un'immensa forza. E appunto con Francesco Parisi, che oltretutto è anche curatore, pensate, sta facendo un grandissimo lavoro, i miei complimenti tra l'altro, onoratissimo di portarlo come voce al Breakfast Club. Lo ritroveremo la prossima settimana, do una piccola anticipazione per i Preraffaelliti, gigantesca mostra non solo di qualità ma di quantità, scusate, ma di enorme qualità, è appena aperta ai Musei San Domenico di Forlì, ma ne parleremo giovedì prossimo, e restiamo in questo caso alla seconda metà dell'Ottocento con Toulouse-Lautrec. Seppur epoche e contesti diversi, sentite questa musica, tra l'altro, come ricorda un certo tipo di intrattenimento e un gusto musicale, quello di Bud Powell, grandissimo pianista. Anche lui non un gigante, anzi. Piano trio qui con Sam Jones al contrabbasso e Philly Joe Jones invece alla batteria, Bud Powell ovviamente al pianoforte. Mettiamo anche la letteratura, questo aspetto baudelairiano che del mondo bohemien chiaramente è molto presente, ci sarà nel percorso in mostra una sezione molto affascinante a riguardo di tutto ciò. Abbiamo fatto una sezione baudelairiana, sì, a questo proposito, proprio perché Baudelaire aveva toccato tutti i temi principali che poi vennero toccati da Lautrec in pittura. Abbiamo un straordinario ritratto di Verlaine, perché Verlaine era un grandissimo amico del suo amico Louis Anquetin, quindi c'è, cioè, famoso un ritratto appunto del poeta. Un'altra sezione di approfondimento non poteva mancare ovviamente è lo Chat Noir, il più famoso cabaret artistico, ma soprattutto è stata l'occasione per l'anteprima mondiale di questo straordinario gruppo d'avanguardia, Les Arts en Cohérence, di cui tutte le opere si credevano disperse e sono state recentemente ritrovate. Appunto, si tratta addirittura del primo monocromo della storia dell'arte, combattimento di negri in una stanza buia, oppure il primo ready-made, ben 80 anni prima degli americani, con una tendina verde, che il cui titolo qui non sto a dire, sarà una scoperta per voi, ma comunque allude ai bevitori di assenzio stesi è verde la tendina. Esattamente, la tendina era verde. Ecco, questo è un po' la costruzione della mostra, ma soprattutto abbiamo cercato anche dei collegamenti inediti tra artisti, uno su tutti, ovviamente supportato da grandi documentazioni storico-artistiche, appunto, è quello di accostare un artista simbolo del decadentismo, del simbolismo internazionale, che è Felicien Rops, all'opera di Lautrec, non solo per il famoso dipinto Pornocrate che mostra la donna con i guanti neri e le calze. E le calze nere che poi troveremo in tanti dipinti di Lautrec, no? Yvette Guilbert ovviamente, ma soprattutto proprio nella sezione Assenzio, in cui c'è un dipinto, la Beveuse d'Absinthe, e il suo amico Gauzy aveva rimproverato proprio Lautrec di aver quasi plagiato l'idea da Rops. Spostiamo un attimo la pubblicità perché volevo dare una continuità in questo stupendo, quanto a volte anche così inquietante, ma intenso racconto che viene portato a Palazzo Roverella. Quando mi sono ritrovato Pornocrate di Felicien Rops, ho avuto la fortuna in apertura di poter ammirare questa stupenda mostra. E Pornocrate di Felicien Rops, di cui vi parlerò, un simbolista decadentista belga, per me capolavoro assoluto. Artisti, tra l'altro, anche artisti che non erano artisti, non sto parlando di Toulouse-Lautrec, Felicien Rops e tanti altri, ci mancherebbe, sto parlando dell'arte incoerente che è stata ritrovata come un'avanguardia di ricerca grazie ai lavori in questi cabaret d'arte che ha portato Toulouse-Lautrec, questo incontro tra personaggi smarriti che si ritrovavano poi in questa espressione immediata ma nello stesso tempo così, così intensa in un'epoca molto particolare, la fin de siècle dell'Ottocento. Da Bud Powell, la lascio terminare questi ultimi 30 secondi di una composizione meravigliosa che è colonna sonora, secondo me, anche per le sensazioni appena descritte, che oltre visive sono di introspezione, di sentimento, di quel sentire, di quella micro sensazione diversamente normale che si prova durante una mostra così intensa. Erano, come possiamo dire, ironici, no? Erano un gruppo di artisti, sì, che avevano avuto queste intuizioni, ma era più per, quasi per, se mo che, per andare contro, certo, l'arte ufficiale. Ecco. Certo, grafica. Beh, la grafica ovviamente ha un ruolo, in questa mostra in particolare, non dominante, a differenza di tutte le altre mostre che sono state organizzate. Per me è un valore aggiunto. Assolutamente, non centrale. Ovviamente Lautrec, è la fama, il mito di Lautrec è legato alla sua attività di affiscista, cioè è stato un grande rivoluzionario. Sicuramente non mancheranno in mostra, non mancano in mostra le opere, i più celebri manifesti, ma anche qui in questo caso li abbiamo messi a confronto con le tendenze dell'epoca. Quindi troverete sicuramente i manifesti di Jules Chéret, che era appunto forse il più celebre dell'epoca. Jean Lorrain rimproverò a Yvette Guilbert perché non ti sei fatta fare la cartella di litografia, certo, da Chéret, quando, che l'avevi a disposizione, hai scelto Lautrec con il suo colore verde cacca di gallina, no? Gli scrisse. E questo mostra proprio effettivamente la grande portata rivoluzionaria di Lautrec, ma abbiamo accostato anche altri autori, per esempio alcuni manifesti di Bonnat per la Revue Blanche non sono così distanti, certo, da Lautrec, e questo dimostra quanto l'atmosfera in parte rivoluzionaria, no, di Lautrec è in parte anche attenuata effettivamente da quanto si faceva in quel periodo. È vero che lui porta alle estreme conseguenze, ma non era un unicum, era un percorso parallelo, ecco. Io la ringrazio tantissimo, complimenti e buona giornata. Grazie mille. Yvette Gilbert, questa cantante, attrice e anche scrittrice, donna molto bella, come avete sentito. Ma come hai potuto scegliere di farti ritrarre da Toulouse-Lautrec? Dicevano per invidia i colleghi, certo, che ha scelto Toulouse-Lautrec per la sua originalità, per la sua intensità, per la sua forza, la capacità moderna di comunicare per l'epoca che resterà per sempre, anche se giustamente condivido, come ho sottolineato nella conversazione, la parte dedicata a grafica e illustrazione. Certo, ha una presenza, ma diciamo che è un corredo a quello che tanto, tanto di più ha portato Toulouse-Lautrec. Sarà fino a giugno a Palazzo Roverella, è un'esposizione tutti i tempi. Dopo la pubblicità, con un appuntamento veramente esteso, per non solo la nostra regione, la nostra città, ma veramente il territorio, dal titolo tra l'altro come rassegna Entroterre, per cui dopo la pubblicità avremo modo di approfondirne i contenuti, visto che è stato presentato. Ma seguiremo con Radio Città Fujiko tutti gli appuntamenti di Entroterre. Insomma, da sempre abbiamo questa vicinanza, ne siamo ben contenti, per cui gli ultimi minuti per darne il via di questi percorsi, visto che è stata presentata nella giornata di ieri, sarà con Entroterre. A tra poco.